Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. I consumi raccontano storie nuove, diciamo in uno dei nostri promo, abitudini e strategie nate con la crisi ma diventate una strada diversa da percorrere, e questa oggi sarà la premessa del primo dei nostri approfondimenti. Parleremo di private label, di sharing economy e di fatto a mano, tre storie diverse unite da questo terreno comune. Focus sui trend dedicato invece ai consumi illuminati, quando la luce fa tendenza. Nuovo appuntamento infine con l'Italian Factor, il nostro acceleratore del Made in Italy, l'occasione, il fattore di oggi. La borsa della spesa. Vai dallo charcutier qui alla cantonata, eh? Vedi? E poi vai il bottegaio. Oh, gli lasci questa roba in pegno e ti fai dare 1,5 chili di spaghetti. Poi ti fai una bella boatta di pomodoro, eh? A proposito, il sugo come lo facciamo? Che dici? Con la salsiccia? Non pigliare quella stantia, quella già fatta. Vogliamo fare una bella padellata di uova? Ti fai dare 0,5 chili di mozzarella di Aversa, freschissima. Piglia queste dita, premi la mozzarella. Se coli il latte, te la pigli. Se no, desisti. E vai fuori di rimpetto dal vinaio, a nome mio. E ti fai dare 2 litri di gragnano frizzante, tu lo assaggi. Se è frizzante, lo pigli, se no. Desisto. Desiste. Oh, Pasqua, dimmi una cosa, ma qui dentro c'è il paltò di Napoleone. Che c'entra il paltò di Napoleone? Beh, c'è il paltò di quando ho sposato mia moglie con Concetta. Lo conosco quel paltò. Se io vado allo chartonier con questo paltò, quello mi piglia a calci. Una spesa di qualità anche in tempi di crisi. Questo il miraggio di Miseria e Nobiltà, questo il miraggio di molti consumatori alle prese con budget sempre più ristretti e una lista della spesa da non sacrificare troppo. Un'esigenza che le insegne della grande distribuzione hanno saputo intercettare, puntando molto in questi anni sulle cosiddette private label, i prodotti a marca del distributore. Sono prodotti che in questi anni hanno registrato un vero e proprio boom, guadagnando quote di mercato sempre maggiori. Siamo quasi al 19% per un valore complessivo di quasi 10 miliardi di euro e una presenza in 92 categorie merceologiche su 100. Dati emersi dalla 10ª edizione di Marca, la manifestazione dedicata alle private label. Ne abbiamo parlato con Francesco Pugliese, presidente di Associazione Distribuzione Moderna e direttore generale del gruppo Conad. Innanzitutto nel mercato italiano oramai la marca del distributore rappresenta 9 miliardi e 7 di giro d'affari, ha raggiunto oramai il 19% della quota sul totale del mercato del largo consumo confezionato, con un trend di sviluppo del 2,7% nell'ambito della distribuzione moderna, visto che tutto il mercato è andato indietro dell'1%, vuol dire che in realtà è l'unica parte del mercato che ha dato delle performance che sono positive. Tra l'altro è una delle aree nell'ambito della filiera complessiva, non solo dell'agroalimentare ma della filiera del largo consumo, che sta dando fiato e respiro all'economia italiana. I produttori che producono marca commerciale per il oltre il 95% sono produttori italiani. Di questi l'80% sono piccole e medie imprese, esattamente la spina dorsale dell'economia italiana. Ci stiamo avvicinando alle quote di mercato di paesi, degli altri paesi europei forti per tradizione per quanto riguarda la marca del distributore. Ecco, la crescita di questi anni a cosa è stata dovuta? Alla maturità del sistema della GDO, a una consapevolezza e scelte diverse del consumatore, a cosa? Per poter fare marca del distributore effettivamente all'altezza delle grandi marche in termini di qualità e con una convenienza di prezzo che va dal 25 al 30% rispetto alle grandi marche, c'è bisogno di volumi. La frammentazione della distribuzione non ha favorito questo discorso. Oggi c'è maggiore concentrazione e pertanto siamo arrivati a questo 19% che è la media nazionale, però all'interno del panorama italiano abbiamo distributori quali DS Lunga, Carrefour, Auchan, Coop, la stessa Conad, che hanno quote di mercato nella marca commerciale che sono al di sopra del 25%, quindi esattamente in linea, solo per un motivo: non sono più bravi o più capaci degli altri, in funzione della dimensione dei volumi riescono a coprire più categorie e quindi a garantire un'offerta complessiva ai clienti dei negozi. non è che in Italia c'era una non consapevolezza da parte delle persone che vengono a fare la spesa. Il consumatore chiede questo. Nell'ambito degli italiani, il 91% delle famiglie ha comprato marca commerciale in Italia, quindi in realtà è un fenomeno che oramai è diffuso e tra l'altro di queste il 40% compra anche linee di prodotti che sono nell'area del premium price, che sono tutte quelle che valorizzano la tipicità. Tutte le catene hanno queste linee di offerta nell'area dell'alto di gamma. Quindi crisi, ma non solo, a spingere le private label. La crisi si può dire che è stata più un acceleratore che non il fenomeno scatenante. La gente oggi è molto più consapevole, guarda molto di più a quella che è la qualità del prodotto e al valore che il prodotto sta offrendo. È molto più informata, l'utilizzo dei mezzi tecnologici quali internet gli fa comprendere bene chi è che produce per il distributore e in molti casi quello che guardano e vedono e trovano è un prodotto che è lo stesso della grande marca, addirittura prodotto dallo stesso produttore e pertanto oggi sono molto meno disincantati, ma questo non è un fattore che è solamente della crisi, è un trend che era già in atto, si è accelerato e che continuerà. Nuove abitudini, dunque, dicevamo, nate con la crisi, accelerate da una consapevolezza diversa del consumatore, ma diventate comunque una strada diversa da percorrere. La seconda storia ha a che fare con la sharing economy, l'economia collaborativa di cui abbiamo parlato più volte, un settore che più di ogni altro in questo momento rappresenta il cambiamento degli stili di consumo e di vita verso modelli più sostenibili a livello sociale e ambientale. La sharing economy inizia a fare presa anche nel nostro paese e anche da noi registra numeri importanti una delle realtà simbolo del settore, Airbnb, la piattaforma che mette in contatto chi cerca un alloggio con chi ha uno spazio extra da affittare, da singole stanze all'interno di un appartamento fino a case sull'albero, castelli, un igloo, addirittura un'isola alle Figi. Con Airbnb, che è presente in 34.000 città e 192 paesi nel mondo, hanno soggiornato, pensate, 10 milioni di ospiti. In Italia registra ritmi di crescita a 2-0, ci dice Matteo Stefanelli, che è country manager di Airbnb Italia. In Italia abbiamo 50.000 spazi a disposizione, quindi devo dire che sta andando molto bene nel nostro paese. Tant'è che siamo praticamente il terzo stato per numero di spazi disponibili su Airbnb, quindi devo dire che stiamo avendo insomma un grosso successo. Il totale di spazi a disposizione in tutto il mondo sono 550.000. Il primo stato per numero di spazi a disposizione è l'America, gli Stati Uniti, dopodiché c'è la Francia e subito a seguire l'Italia. Ogni giorno in Italia soggiornano 12.000 persone, quindi ogni giorno ci sono 12.000 viaggiatori che dormono su spazi, soggiornano su spazi messi a disposizione su Airbnb. Airbnb viene molto spesso citata come caso simbolo della cosiddetta sharing economy, che è l'economia della condivisione e della collaborazione, proprio per le sue caratteristiche fondative, ottimizzazione degli spazi, reddito aggiuntivo a disposizione di chi appunto diventa un host e scambio anche di relazioni umane. Ecco, quanto questi rimangono gli elementi distintivi di Airbnb e che cosa ci può raccontare in merito? Sono fondamentali questi elementi. Avviene spesso che la relazione poi che si viene a creare tra l'host, che è la persona che ospita, e il viaggiatore, diviene poi un legame quasi di amicizia. Perché qual è il bello? Cosa cerca il viaggiatore andando su Airbnb? Il viaggiatore non solo vuole uno spazio unico, magari vuole risparmiare, vuole uno spazio comodo, ma vuole anche in un certo senso sentirsi a casa e quindi scoprire quei luoghi della città che non vedrebbe se fosse solo un turista. E per fare questo ha bisogno di una persona del luogo. La persona del luogo è l'host, la persona che ti ospita, e di solito ti consiglia, ti dice dove mangiare, cosa vedere, dove andare la sera. Ti fa veramente vivere il posto non come un turista, ma come un viaggiatore che ha una persona del luogo che lo ospita. Questo senso dell'ospitalità allargata, condivisa, è stata messa alla prova anche nei disastri ambientali. In America ci sono state le esperienze dell'uragano Sandy a New York e poi il tifone nelle Filippine. Anche in Italia però Airbnb ha potuto, insomma, mettere a disposizione in modo solidale la propria ospitalità per l'emergenza in Sardegna, è così? Abbiamo lanciato la piattaforma dei gruppi l'anno scorso e tramite il gruppo che è attivo in Sardegna abbiamo ricevuto richieste da parte di host di poter aiutare qualcuno se fosse in caso di necessità. Di conseguenza abbiamo deciso subito di aprire la piattaforma di supporto per i disastri e abbiamo dato la possibilità agli host di mettere a disposizione i propri spazi in maniera gratuita nelle zone colpite. E questo, insomma, ha avuto subito un ottimo riscontro. Abbiamo avuto circa un centinaio di spazi a disposizione. Il tool di risposta ai disastri è nato proprio con questa dinamica, è nato durante l'uragano Sandy. Visto il risultato positivo, abbiamo deciso di lanciare il tool ogni volta ci sia una situazione d'emergenza come questa. E a proposito di crisi e reddito aggiuntivo, la terza storia invece ha a che fare con un'altra delle tendenze in evidenza in questi mesi, il fatto a mano, l'artigianalità. E littlemarket.com si definisce la community italiana del do it yourself ed è diventata una nuova fonte di guadagno per molte donne, fino a 350 euro al mese. Oggi il portale riunisce oltre 3.000 creatrici, 11.000 i membri iscritti, 30.000 gli oggetti in vendita. Maria Cristina Manzoni è la Country Manager Italia. C'è una richiesta di fatto a mano sempre più in crescita e a Little Market è nato in Francia 4 anni fa e alla fine del 2012 abbiamo deciso di portare in Italia questo progetto e di lanciare a Little Market sul mercato italiano. All'inizio è stato molto importante creare un'offerta varia che noi costruiamo attraverso i nostri creatori, perché sono i creatori che iscrivendosi gratuitamente sulla piattaforma possono vendere le loro creazioni. C'è stato proprio un boom esattamente un anno fa, a Natale 2012, e da quel momento in poi abbiamo sempre avuto una crescita costante. Abbiamo deciso per una strategia di mercato di differenziare le due piattaforme, quella francese con prodotti francesi e quella italiana con prodotti made in Italy. Le categorie variano dai bijou, gli accessori che sono molto richiesti, poi c'è una parte di moda, una parte per i bambini, poi c'è una parte della casa e infine abbiamo anche una sezione dedicata all'arte, per ultima una sezione invece più semplice ma che è molto simpatica, quella della cartoleria e di tutto ciò che riguarda quindi gli inviti fatti a mano e altre cose di questo genere. Senz'altro la presenza femminile è quella predominante, poiché abbiamo il 98% dei nostri creatori che sono iscritti di sesso femminile. Il loro guadagno può variare a seconda ovviamente delle creatrici fino a raggiungere delle cifre interessanti, tanto che almeno la metà delle nostre creatrici ha potuto in questo anno guadagnare delle somme pari alla retta ad esempio trimestrale dell'asilo dei loro figli o comunque hanno potuto pagare diverse bollette con le entrate proprio derivanti da Little Market. Sostenibilità, valorizzazione degli spazi urbani, arte e prodotti che ci aiutano a vivere meglio. Il filo rosso che unisce tutte queste cose è la luce, sempre più protagonista nel mondo dei consumi. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. La luce è ideologia, sentimento, colore, tono, profondità, atmosfera, racconto. La luce fa miracoli. Aggiunge, cancella, riduce, arricchisce, sfuma, sottolinea, allude. Fa diventare credibile e accettabile il fantastico, il sogno. E al contrario, può suggerire trasparenze, vibrazioni. Dà miraggio alla realtà più grigia, quotidiana. Il film si scrive con la luce. Lo stile si esprime con la luce. Focus sui trend. Di nuovo in studio con Essere Avere, così scriveva Federico Fellini, parole attualissime non solo per il cinema. Oggi la luce ha un ruolo sempre più importante nella vita, nella scienza, nell'arte, nelle forme espressive, nei consumi. L'UNESCO ha proclamato il 2015 l'anno internazionale della luce. Obiettivo dell'iniziativa, leggo dalla presentazione, promuovere la consapevolezza civile e politica del ruolo centrale svolto dalla luce nel mondo moderno. Oggi parlare di luce e nuove tecnologie significa parlare di sostenibilità, ma anche di salute, comunicazione, valorizzazione dello spazio urbano, prodotti che ci aiutano a vivere meglio. Life Enlightenment è la definizione di questo contesto da parte dei ricercatori di Future Concept Lab, che come sempre ci aiutano a tracciare le nuove tendenze e i fenomeni in evoluzione. Sabrina Donzelli, ben ritrovata. Ben ritrovata a te, buongiorno a tutti. Vita e consumi sempre più illuminati, Sabrina, possiamo dire. Qual è la cornice di questo fenomeno? Sicuramente parlare di luce significa parlare di vita, diciamo, di vita, di informazione. Teniamo conto che sotto forma di luce che tutta l'informazione ci arriva dall'universo, e quindi in questo caso questa promozione della luce e di tutta la sfera, se vogliamo, scientifica e culturale attraverso un anno interamente dedicato permette anche di fare delle riflessioni sulle tecnologie basate sulla luce e sul contributo strategico per promuovere anche lo sviluppo sostenibile in ambiti diversi. Tu hai citato diversi ambiti con questa bellissima citazione da Fellini. Potremmo dire che si mette a fuoco, si mette in luce, lasciami passare questo termine, un'esigenza di base e anche una potenzialità ampissima su cui lavorare per rilanciare nuovi parametri di qualità. Quindi parliamo di consumi, di prodotti, di servizi, ma anche di qualità della vita quotidiana. E in questo caso parlare di luce e delle tecnologie ci permette anche di avere nuovi stimoli per l'utilizzo creativo dei materiali e della loro trasformazione industriale. Sono molti gli usi artistici di questa valorizzazione della luce. Sì, anche qua vicino a Milano, a Villa Panza, vicino a Varese, c'è in questo momento una mostra molto interessante, si intitola Aesthesis, all'origine delle sensazioni, appunto per mettere il punto sul tutto l'aspetto percettivo, sensoriale che coinvolge la sfera luminosa. Sono due artisti che storicamente fanno ricerca sulla poetica della luce, Tarell e Irving, protagonisti dell'arte ambientale americana, che lavorano su luce, percezione e spazio. Sicuramente la luce permette di lavorare su questo filone di conoscenza, di percezione e anche di sottolineatura degli spazi, e direi che è interessante come laboratorio, anche per ritornare sulla sfera della sostenibilità, per lavorare anche sugli spazi pubblici. Quest'estate ero a Lisbona e nel mese di luglio ci sono state 3 giornate intitolate Nur, che vuol dire luce in arabo, per mettere in luce un quartiere che era stato dimenticato negli anni, la Moraria, che era uno dei quartieri più antichi di Lisbona, abbandonato, e quindi era stato deciso di riaccendere le luci su questo luogo, coinvolgendo etnologi, artisti, creativi di ambiti diversi, e quindi tutti i vicoli del quartiere erano stati illuminati con delle installazioni, con dei concerti, proprio l'idea di fare luce non solo fisicamente, creativamente, ma anche riportare l'attenzione a un luogo. Un'altra interessante segnalazione che vorrei fare, più attuale, Amsterdam, fino a domenica, per chi volesse con un last minute volare nella città olandese, c'è ancora il Light Festival, quindi fino al 19, e all'interno di questo festival dedicato alla luce, con percorsi vari, percorsi pedonali, percorsi lungo i canali delle città e con opere site specific, c'è una segnalazione interessante, proprio nel tunnel del Rijksmuseum si trova questa installazione che si chiama Battaglia di Luce, Light Battle. Praticamente è stato costruito un arco leggero su cui sono stati installati quasi 5.000 elementi luminosi, sono delle luci a LED, ciascuna attivata da un sistema informatico, e su entrambi i lati ci sono 5 biciclette, per cui per una gara di potenza fra quelli che si siederanno al sedile di queste bici, per sfidarsi in una lotta all'ultima pedalata con un combattimento di luci rosse e blu. Qual è la ricaduta sui consumi di tutto questo? Di quali prodotti possiamo parlare? Ti porto un esempio di illuminazione, non soltanto come illuminazione in sé, ma come prodotto. C'è una lampada che si chiama Trap Light ed è una ecolampada nata dalla collaborazione di due designer, Gatto e Thompson, che abbina una tradizione artigianale a una ricerca moderna proprio sui composti. È una lampada in vetro, ecologica e sostenibile, e permette di illuminare gli ambienti anche quando è spenta. Praticamente ha degli pigmenti fotoluminescenti inseriti all'interno del vetro di Murano. Poi dentro ci sono dei LED e rilascia la luce a poco quando viene spenta. Praticamente con 30 minuti di esposizione alla luce vengono emesse segnali luminosi per ben 8 ore. Non solo prodotti di illuminazione, anche la moda e il design rincorrono la luce. Ti indico due novità nell'ambito della moda e degli accessori. Adesso al Pitti a Firenze sono state presentate le calze a LED di Gallo, una serie di LED posizionati al centro lungo tutta la verticale del polpaccio, e illuminano le calze Gallo, che già di loro sono abbastanza particolari, così colorate. Dicono che siano anche perfette per ciclisti o runner, quindi l'elemento così di curiosità, di piacevolezza estetica unito a una certa utilità. Ma i tessuti intelligenti, anche questi si illuminano d'immenso. Creatori di moda sono molto attratti da queste possibilità tecnologiche, dalla fotosensibilità. Una stilista come Hossein Shalayana ha realizzato abiti costruiti da micro LED sensoriali che possono essere programmati per modificare la texture e i colori. Altri stilisti, altri ricercatori brasiliani, sempre nell'area della moda, hanno progettato altri vestiti che possono essere stimolati anche dallo stato emotivo delle persone. Un altro stilista, Riccardo Nascimento, ha realizzato dei vestiti che ospitano 62 piccoli LED su tutta la superficie e che, quando stimolati da un fascio luminoso, reagiscono, trasmettono luci e colori diversi. Quindi c'è una magia che si unisce a una ricerca scientifica. Italian Factor. Diamo subito il benvenuto, ci ha raggiunto in studio come sempre a questo punto il nostro ospite fisso, Francesco Morace, ben ritrovato. Buon pomeriggio a tutti. Continua il nostro viaggio a puntate alla ricerca dell'Italian Factor, virtù, fattori ed elementi per valorizzare, accelerare e comunicare il Made in Italy e le sue eccellenze. Siamo ai fattori potenziali in grado di risvegliare molte risorse nascoste. Francesco, oggi di che cosa ci parli? Oggi parliamo dell'occasione, che è straordinariamente interessante e che ci arriva dalla cultura greca, perché kairos è un'espressione che è un'altra modalità di vivere il tempo, no? Il cronos è il tempo cronologico, kairos è il tempo dell'opportunità, è proprio l'occasione. Allora, ricordiamo tutti che negli anni scorsi si è parlato di stile di vita, i consumatori seguivano degli stili di vita. Oggi è più corretto parlare di occasioni di vita, perché ciascuno di noi, ad esempio, mangia, si veste e si comporta in modo diverso a seconda addirittura del giorno della settimana o della propria agenda. Molto bello questo passaggio dallo stile di vita all'occasione di vita, dice molto anche della personalizzazione dell'offerta di questi tempi. È proprio così. Immaginiamo cosa avviene oggi nel mondo del retail avanzato. Gli outlet sono una proposta, quindi un'occasione per le persone di bargain permanente, no? Possibilità di fare l'affare non solo con i saldi ma nel corso di tutto l'anno, ed è un'altra modalità di interpretare l'occasione, in questo caso di consumo. Questo costituisce anche un ponte con il consumatore di oggi, sempre più informato, sempre più evoluto. Può essere anche un ponte per tutti a livello trasversale, per le nuove generazioni così come per quelle, per le persone più anziane? ogni generazione ha la sua capacità di cogliere l'occasione e questo è importante proprio per l'Italia, per gli italiani. Noi ricordiamo che tra le virtù che abbiamo indicato, versatilità e variabilità sono due punti di forza della nostra psicologia collettiva. Allora si tratta anche per le aziende, per gli operatori, di cogliere questa opportunità e di creare occasioni nuove di stimolo, di esperienza nel mondo del retail, ma anche nel mondo del consumo, per stimolare le diverse generazioni che poi possono anche incontrarsi su alcune esperienze particolari. Francesco, grazie, a sabato prossimo. Grazie a voi. E grazie anche a Gianmarco Ferronato in regia. Finisce qui anche questa puntata di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Veniteci a trovare sulla nostra pagina Facebook o sulla pagina programma sul sito della radio. Troverete la puntata da riascoltare e scaricare e molti altri contributi aggiuntivi. A sabato prossimo. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.